24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Paola Nania. Tra i temi di cui parleremo oggi c'è il flusso di immigrati che preme sui confini meridionali dell'Europa, Italia ma non solo. Con la commissaria europea agli affari interni Cecilia Malmström, che critica le politiche di respingimento che sta attuando la Francia in questi ultimi giorni. C'è poi il fronte Parmalat, che vede contrapposti italiani e francesi nella gestione dell'azienda alimentare. E qualche curiosità legata al pesce d'aprile. Partiamo dunque dal flusso migratorio che preme sui confini dell'Europa, soprattutto sull'Italia ma anche sulla frontiera con la Francia. Secondo la commissaria europea agli affari interni, Cecilia Malmström, la Tunisia, da cui è arrivato finora il flusso maggiore, ha la volontà di cooperare e trovare una soluzione costruttiva per gestire la crisi. La commissaria ha poi criticato la Francia, che sta respingendo gli immigrati arrivati alla sua frontiera. Parigi non può farlo, ha detto, perché i confini nello spazio di libera circolazione di Schengen non esistono più. Intanto il premier italiano Silvio Berlusconi punta a trovare lunedì un accordo con la Tunisia. 100 irregolari rimpatriati ogni giorno e aiuti per 100 milioni di euro. Naturalmente la prima soluzione per noi è quella del rimpatrio e poi ci sono le altre soluzioni che saranno certamente discusse con tutte le istituzioni locali, che oggi hanno dato anche la loro disponibilità a un ricevimento, ove ce ne fosse la necessità, parcellizzato nei comuni, nelle province e nelle regioni italiane. E i governatori delle regioni italiane hanno respinto la proposta del governo Berlusconi di allestire tendopoli per accogliere le migliaia di migranti in arrivo sulle coste europee. Chiedono invece di attivare una norma prevista dalla legge per gli stranieri che consentirebbe i ricongiungimenti familiari e aprirebbe le porte alla partenza per altri paesi europei di migliaia di persone. Lo spiega la governatrice della regione Lazio, Renata Polverini. Il nodo da sciogliere è quello di capire se questo paese vuole applicare il famoso articolo 20 della legge sull'immigrazione, che comunque consentirebbe anche attraverso i ricongiungimenti familiari, ma non solo, di mandare gli immigrati che transitano per l'Italia nelle altre regioni, a cominciare dalla Francia ma anche la Germania, dove evidentemente molti di questi immigrati vogliono andare. Ora la pagina economica, a partire dai dati sulla disoccupazione in Europa. Nell'Unione a 27, nel mese di febbraio, il tasso di disoccupazione è stato del 9,5% e del 9,9% nella zona euro. Questi sono dati Eurostat. Le ultime vicende della Parmalat, contesa tra italiani e francesi di Lactalis. Tutto come previsto al CDA di Parmalat. Il Consiglio ha deciso di rinviare l'assemblea della società alla fine di giugno, così come gli consente il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana. All'uscita dal CDA, durato circa 3 ore, l'amministratore delegato Enrico Bondi è apparso sorridente, ma non è venuto meno alla sua tradizionale riservatezza davanti ai giornalisti che lo attendevano sotto la sede milanese del gruppo. Di certo il rinvio è una buona notizia per Intesa San Paolo, Unicredit e Mediobanca, che in una lettera inviata al Consiglio di Amministrazione hanno ribadito il loro sostegno a un progetto italiano alternativo ai francesi di Lactalis. Cosa succederà adesso? Il rinvio dell'assemblea sarà probabilmente contestato da Lactalis in sede legale. Intanto però la cordata italiana dovrà fare qualche passo in avanti. Dietro le banche si fatica a vedere imprese industriali che possano portare avanti un progetto. L'unica novità è stata il sostegno del governo, che con un decreto ha dato la disponibilità ad entrare nel capitale delle imprese strategiche del paese, Parmalat compresa. La Cassa Depositi e Prestiti, forte del risparmio postale, dovrebbe essere lo strumento indicato per mettere i soldi nell'operazione. Il provvedimento è già finito sotto la lente della Commissione europea e anche il presidente della Cassa Depositi e Prestiti, Bassanini, ha fatto chiaramente intendere che prima di qualsiasi investimento si deve modificare lo statuto della Cassa e poi comunque valutare la sostenibilità dell'operazione. Guido Maurino, da Radio Corpo a Radio 24, il Sole 24 Ore. E ora il focus sull'andamento delle borse. Il listino milanese ha chiuso in rialzo dell'1,1% grazie al dato sull'occupazione americana decisamente migliore delle attese. Piazza Affari per metà giornata è stata la peggiore in Europa, appesantita dallo scivolone di Intesa San Paolo, che ha poi recuperato chiudendo a più 1%. La banca guidata da Corrado Bassera non ha smentito l'indiscrezione stampa relativa a un possibile aumento di capitale da 5 miliardi di euro, ma ha dichiarato che la posizione sul tema verrà comunicata al mercato dopo la riunione del Consiglio di Gestione e del Consiglio di sorveglianza del prossimo 5 aprile. La migliore sul paniere principale è stata Mediolanum, più 2,9%, che dalla diffusione dei risultati 2010 il 29 marzo ha guadagnato il 6,5%. All'indomani della pubblicazione dei conti, Terna ha chiuso a più 0,83% a quota 3,406 euro, praticamente più del doppio rispetto al valore della quotazione avvenuta a giugno 2004 a 1,70 euro. Male invece Buzzi Unici a meno 2,4% dopo la comunicazione del bilancio. La società ha chiuso lo scorso anno con una perdita netta di 41 milioni di euro rispetto all'utile di oltre 171 milioni del 2009. Livia Zancaner da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore. La norma europea sui contratti a tempo determinato sta causando una bufera nella scuola italiana. Sulla base della normativa europea, infatti, il Tribunale di Genova ha deciso un risarcimento record e ora sono 65.000 gli insegnanti con almeno 3 contratti annuali di fila che potrebbero fare ricorso al giudice. Il costo totale dei risarcimenti sarebbe di circa 3 miliardi di euro e il governo italiano sta valutando l'ipotesi, che risulterebbe meno onerosa, di assunzioni di massa. Il giuslavorista e parlamentare del Partito Democratico Pietro Ichino al microfono di Maria Piera Ceci. Il diritto europeo non ci consente di mantenere l'attuale dualismo caratteristico del nostro mercato del lavoro, del tessuto produttivo, sia nel settore pubblico che nel settore privato. La direttiva europea numero 70 del 99 innanzitutto vieta di utilizzare il lavoro precario come forma normale di ingaggio dei lavoratori. Ora, come si può cambiare? Evidentemente noi non possiamo pensare di estendere l'attuale diritto del lavoro a tutti i 18 milioni e mezzo di lavoratori dipendenti, perché il sistema non lo reggerebbe. Io dico che bisogna tirare una linea e da oggi in avanti, per tutte le nuove assunzioni, occorre un nuovo diritto del lavoro che sia davvero applicabile a tutti. Quindi nel settore del pubblico impiego, tutti a tempo indeterminato, ma nessuno inamovibile. Di che forma è la Terra? La risposta dall'Agenzia Spaziale Europea. Croce è molto importante per tante applicazioni e vogliamo misurare le correnti dell'oceano. Abbiamo bisogno per questo di una conoscenza del campo gravimetrico di più o meno qualche centimetro di precisione. Il direttore dei programmi di osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea, Volker Liebig, ha presentato la nuova forma del geode terrestre prodotto dalle misurazioni compiute in orbita dal satellite europeo GOCE. La mappa gravitazionale del pianeta, disegnato dal satellite in orbita a soli 255 km dal suolo, ha prodotto un profilo che nella trasposizione tridimensionale ricorda decisamente una patata biologica, piuttosto che il liscio pallone schiacciato ai poli che associamo alla forma della Terra e che abbiamo studiato a scuola. La ragione sta nell'invisibile parte interna del nostro pianeta, capace di incurvare gli oceani e di scatenare anche energie distruttive che proprio i satelliti per l'osservazione della Terra cercano oggi di farci comprendere sempre meglio. C'era anche una nuova distribuzione di masse nella Terra, perché Giappone ha fatto un movimento di 2,5 metri a causa di questa terremoto. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Federcalcio bosniaca è stata sospesa fino a nuovo ordine dalla FIFA e dalla UEFA. È infatti scaduto l'ultimatum sulle modifiche statutarie da attuare, pena appunto la sospensione automatica dall'Unione Calcistica Europea. La Bosnia è impegnata nel gruppo D delle qualificazioni agli Europei 2012. Il suo prossimo impegno sarà il 3 giugno contro la Romania. La richiesta è stata avanzata dalla Football Supporter Federation, l'associazione che riunisce gli appassionati di calcio. I tifosi inglesi rivogliono gli spazi per i posti in piedi negli stadi della Premier, aboliti per legge dopo la tragedia nello stadio di Sheffield del 1989. Motivo principale: il costo più basso e alla portata dei meno ricchi. Dario Ricci ha intervistato al riguardo Michele Uva, responsabile scientifico del corso di Stadium Management promosso proprio in questi giorni dalla Federcalcio. L'Inghilterra è ritornata a pensare alla possibilità di avere dei posti in piedi, quindi diciamo con un prezzo inferiore, perché uno dei principi che hanno caratterizzato l'intervento del giudice Tello per la sicurezza dell'impiantistica sportiva è stata anche quella di elevare il biglietto. Un biglietto minimo in Inghilterra oggi costa 30 sterline, che vorrebbe dire quasi 40 euro, quindi un prezzo altissimo. Questo ovviamente hanno risolto il problema dell'hooliganismo e a questo punto evidentemente si sentono tranquilli e sicuri che l'accesso e la vivibilità degli stadi e il grado di sicurezza rodato all'interno degli stadi dopo 18 anni di esercitazione non porti nessun tipo di problema a creare un nuovo settore di tifosi in piedi. Però è un processo lungo. E in chiusura, notizie in breve. Sarà Cristiano Ronaldo a risolvere i guai economici del Portogallo. Il Ministero delle Finanze portoghese ha siglato un accordo per la vendita alla Spagna del giocatore più pagato al mondo. 160 milioni di euro per salvare la sua nazione dal collasso economico. Una decisione storica, tanto quanto la sentenza del Tribunale per la Proprietà Intellettuale delle Nazioni Unite, che ha ordinato il pagamento dell'1% dei profitti sulle vendite delle patate agli indiani sudamericani. Sono loro gli inventori della patata tra il 3000 e il 2000 avanti Cristo, ha stabilito la giudice Desiree Pure. Niente tasse, ma un nuovo servizio della Ryanair che inaugura i voli bambini free senza minorenni a bordo. I bimbi potranno invece viaggiare sulla Arkin Airways, che lancia la prima compagnia aerea solo per i piccoli, con personale di bordo vestito da clown, gara di urla e gomme da masticare servite senza restrizioni. Prossimamente verrà lanciato anche il Teen Jet, vettore solo per teenager, con servizio SMS per contattare il proprio vicino di posto. Notizie tutte vere, ma solo il 1 aprile. E se oggi a qualche scherzo ci siete cascati, non temete, capita a tutti. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si chiude qui il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Un saluto da Paola Nania. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.